Tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Franco Piantanida in redazione, Mauro De Angeli in regia. E poi dite che non vi voglio bene, ieri vi ho fatto fare surf e vi ho portato al mare, oggi invece vi porto tutti in Spagna, andate e ritorno da Torino, e torniamo insieme portando El Kun Agüero alla Juventus, ve lo assicuro. Ho anche assistenza legale, Fabrizio Ferrari, avvocato e procuratore di giocatori. Ciao, buongiorno, Fabrizio. Buongiorno a tutti. Andiamo insieme, portiamo Agüero alla Juve. Okay, ok, sei pronto? Prontissimo. Però prima di cominciare questo viaggio, invito gli ascoltatori che vogliono salire a bordo. 800 24 00 24, numero verde, messaggi 349-238-6666. Ti devo dire, caro Fabrizio, che io ho due fisse. Io che non ci prendo mai, non ne prendo mai uno sul mercato, tanto che è da gennaio che dico, ma tranquilli perché Sanchez è dell'Inter. È da gennaio che lo dico, infatti va al Barcellona. Io ho due fisse in quest'estate, che mi sono un po' inventato e un po' no. Cassano, che finisce alla Juventus e invece andrà, come sappiamo tutti, alla Fiorentina. Probabile. E Fabregas, che va al Milan e invece andrà al Barcellona regolare. Probabilmente sì. Credo che le tue fisse effettivamente non troveranno riscontro. Però Sanchez un accordo con l'Inter ce l'aveva. Secondo me il ragazzo era d'accordo per andare all'Inter, però bisogna passare da casa Pozzo prima di parlare con i giocatori, questo è inevitabile e non c'è niente da fare. I Pozzo sono durissimi, sono irremovibili, hanno una politica veramente molto dura per quanto riguarda le vendite e credo anche che loro abbiano tentato in ogni modo di mandare il ragazzo, o comunque averselo consigliato di mandare il ragazzo alla Manchester City, perché probabilmente a livello di bonus offriva qualcosina in più, però credo che il giocatore abbia deciso di andare a Barcellona. E quanto a Cassano alla Juventus, secondo te è impossibile? Boh, sì, secondo me è una bella fantasia. E Fabregas al Milan invece? Credo altrettanto impossibile, perché credo veramente che il ragazzo si sia veramente promesso al Barcellona. Se va via dall'Arsenal va a Barcellona. Quindi prendono Sanchez, prendono Fabregas, prendono magari Giuseppe Rossi e poi chi prendono? Me e te. Sì, possiamo anche andare tranquillamente a vincere la Champions anche noi. Invece al Milan con ogni probabilità andrà Hamsik. A proposito, ce n'è una divertente di De Laurentiis di oggi. Hamsik è l'uomo del momento, lo sappiamo tutti. No, non facciamo sentire Galliani. Galliani lo facciamo sentire. Di rendimento, ma è la Sharapova. No, adesso provvediamo, insomma, adesso provvediamo perché non è la Sharapova. Avevamo un di Galliani, se devo ammettere. Assolutamente meglio. Però oggi De Laurentiis ha detto 40 milioni per Hamsik. Questo è il prezzo di un rimborso spese. Io adoro De Laurentiis, devo ammettere questa mia debolezza verso il presidente del Napoli, che comunque mi piace come si pone in modo differente rispetto a tutti gli altri presidenti. È vero che è molto duro, è vero che per dare via Hamsik vuole veramente un rimborso spese piuttosto importante, come lo chiama lui. Beh, insomma, 40 milioni però sono tanta roba. Una settimana fa anche Pozzo, esattamente una settimana fa, che è stato ospite dei nostri microfoni, insisteva nella quotazione di Sanchez 50 milioni di euro. Sono cifre esagerate. 40 milioni per Hamsik siano già tanti soldi. Guarda, in realtà poi se tu vai a spulciare i veri contratti, non sono mai questi soldi completamente garantiti. Solitamente negli ultimi due anni si cerca di fare con una parte, diciamo, fissa garantita alla firma e una parte che si crea poi coi bonus nel perdurare del contratto del giocatore. Credo che questa sia più o meno la moda degli ultimi anni. E secondo me i 40-50 si riferiscono comunque a una quota di bonus in riferimento a quello che farà poi il club acquirente nei successivi 3-4 anni di permanenza del giocatore. Sì. Dunque, però, come detto, adesso partiamo perché dobbiamo andare a Madrid, prelevare El Kun Agüero, portarlo alla Juventus, fargli firmare il contratto e intanto lo sentiamo cantare. The King. Kun Agüero, papà. Questo è lui che canta, eh? Bellissima davvero. Bella voce, bravo, canta bene, vuole un sacco di soldi, secondo me sarà difficile convincerlo a venire alla Juventus. Ma guarda, effettivamente il mercato spagnolo è complicato, perché sembra che il Real Madrid e il Barcellona possano prendere 18 giocatori ogni anno e tutti attaccanti. Aspetta, in diretta ti cambio il microfono perché quello si sente male. Ok. Ti cambio microfono a Fabrizio Ferrari, però cosa ci volete fare? Proviamo a vedere se si sente meglio questo microfono. Io ripeto, oggi lo scrivono tutti, mi sembra il giocatore del momento, il grande sogno della Juventus, il crack che la Juventus sta aspettando. Io continuo a pensare che sia estremamente difficile portarlo a Torino. Perché? Perché la Juventus non fa la Champions League, perché non ha grande appeal, perché comunque andrebbe ad alterare gli equilibri salariali che la Juventus sta faticosamente cercando di costruire. Un giocatore guadagna molti soldi. Stavi dicendo? Stavo dicendo che secondo me il mercato spagnolo è piuttosto complicato. È piuttosto complicato capirne veramente le dinamiche, perché sembra che tutti i giocatori possano essere interessati e al trasferimenti al Real Madrid e al Barcellona, quando poi in realtà il Real Madrid e il Barcellona non è che ne possono prendere 6 a testa di attaccante ogni anno. Quindi si gioca moltissimo su questo equivoco, la possibilità che il ragazzo vada a Real Madrid o meno. Io non lo so, può anche darsi che il Madrid sia interessato, però il progetto Juventus, devo dire la verità, a me piace. Sì. Io se fossi in lui ci andrei. Bene, adesso possiamo sentire qualcosa su Hamsik? Quante possibilità ci sono che Hamsik arrivi al Milan? Zero. Nonostante tutti gli sviluppi? 0-0-0. No, 0-0-0. La proposta per lasciare senza fiato dei Laurenti se il Milan no, assolutamente. Quante possibilità ci sono che il Milan prenda Hamsik? 70%. Quante? 70%. 70%. Pinocchio, quindi... Beh, Galliani giustamente dice zero, perché in questo momento ha zero possibilità di prenderlo, però ci stanno lavorando. Usiamo sofisma, ci stanno lavorando. Zero in questo momento, nel senso che non ha ancora firmato per il Milan. Esatto, quindi è zero, ha ragione lui. Quindi è zero. No, dicevamo di Agüero. Dicevamo di Agüero. È anche un giocatore che guadagna molti soldi. Sì, infatti questo è un po' il problema del campionato italiano e delle squadre medio-alte nostre, che non riusciamo a raggiungere, secondo me anche giustamente, gli ingaggi che hanno questi grandi giocatori in squadre medio-alte degli altri campionati. Se tu pensi che un giocatore del Sunderland o del Blackburn guadagna 1,5 milioni di euro netto, da noi sì. Un giocatore del Chievo o di un'altra squadra di media classifica sicuramente non li prende questi soldi qua. Quindi sostanzialmente la differenza è questa. Adesso noi con Agüero stiamo parlando di cifre ben più importanti. La Juventus teoricamente potrebbe anche pagarle, però probabilmente politicamente e strategicamente cercheranno di diminuirlo il più possibile e legarlo ai risultati del club. Vino vuol dire Napoli che fa in montagna, Torino è un dirigibile verso la Spagna. Dirigibile verso la Spagna, canta. Caspita, Venditti. Andiamo a prendere il Kun Agüero con il dirigibile, caro Fabrizio Ferrari. Mentre c'è chi, dopo averlo sentito cantare, scrive che spera che vada alla Juve Stabia, basta Trieste, oppure chi scrive mamma mia, speriamo che giochi meglio di quanto canta. A me non era dispiaciuto, se vi devo dire la verità. 800 24 00 24, Guido Vaciago da Torino e da Tutto Sport. Ciao Guido. Ciao a tutti chi ci ascolta. Allora, non andiamo a prenderlo col dirigibile, ma andiamo a prenderlo con l'aereo, il Kun Agüero. La tua sensazione è che arriverà con l'aereo oppure no? La mia sensazione è che in questo momento è sicuramente l'obiettivo numero uno della Juventus. Non è l'unico obiettivo, essendo una trattativa molto difficile, sono convinto che Marotta abbia almeno un paio di alternative, e a mio parere queste possono essere Giuseppe Rossi e Carlitos Tevez. È concentrato su Agüero e quindi ci sono buone possibilità, considerando le circostanze, che effettivamente questo assalto vada a buon fine. Però non è l'unico giocatore che potrebbe arrivare alla Juve, ecco, potrebbe, naturalmente non è che sono tutti alternativi, però non è l'unico obiettivo. Sì, lo chiedo anche ai nostri ascoltatori, 800 24 00 24, chiedo a Guido Vaciaga, Fabrizio Ferrari: è un giocatore che può essere quello ideale per la Juventus di Conte? È un giocatore che può accendere sul serio la fantasia della piazza torinese? Piace alla gente l'idea di Agüero? Guido? Guarda, io ho preso una cantonata 2 anni fa con Diego, ero convinto che fosse il giocatore adatto per risollevare le sorti della Juventus. Sicuramente è stato un giocatore che ha incendiato la fantasia dei tifosi durante l'estate. Io e purtroppo anche quelli della Juve hanno preso una cantonata clamorosa su Diego, quindi adesso è come dire, mi sono scottato, sono sempre molto cauto. Mi sembra che Agüero sia di un'altra pasta, mi sembra che Agüero sia, faccia davvero parte di quella categoria che è stata etichettata da Marotta con questa definizione top player, che un po' mi fa schifo, devo dire, ma comunque utilizziamola. Comunque è veramente un fuoriclasse, quindi secondo me si adatta a qualsiasi allenatore da Conte in poi. E secondo me è un giocatore che proprio per la sua essenza di essere fuori classe potrebbe anche incendiare la fantasia. Poi sai, tutto dipende dai primi risultati, dall'andamento della squadra. Un giocatore può far innamorare il popolo d'estate come accadde con Diego e poi appena arriva l'inverno iniziare a deludere. Io penso che Marotta stia pensando più all'autunno e all'inverno, sì, che all'estate, anche se c'ha uno stadio da riempire, degli abbonamenti da fare e tutto il resto, però per la Juventus sarebbe troppo grave fallire ancora una stagione dal punto di vista sportivo. Serve uno che non si intristisca, insomma, che non questo si intristisca con le foglie morte. Fabrizio, il Kun è sicuramente un ottimo giocatore, ha dimostrato in questi anni di poter reggere la pressione, di essere un giocatore leader della sua squadra, quindi secondo me potrebbe essere il giocatore ideale. Come diceva giustamente il nostro giornalista, non è l'unico obiettivo della Juventus, secondo me. Secondo me hanno in mente 3-4 situazioni e si muoveranno poi decisamente su quella che... Ma sei d'accordo sui nomi? Tevez e Giuseppe Rossi sono... Giuseppe Rossi sicuramente sì, Tevez secondo me è ancora più complicato di Agüero. Sono d'accordo. Guido, ma sulla storia dei salari, perché Agüero è uno che guadagna moltissimi soldi, più di qualsiasi altro giocatore della Juventus, può creare dei problemi di equilibrio interno se dovesse arrivare lui? Li creerà, soprattutto se poi non dovesse, come dovesse disattendere le attese, insomma, in qualche modo quello che è il suo nome. Se poi gioca bene, gioca da fuori classe, probabilmente creerà qualche problema in meno. Qualcuno lo creerà di sicuro, ma d'altra parte quando uno vuole i fuori classe non è che ormai può uscire da questo da queste cifre, non può in qualche modo dribblare il problema. Alla Juve se lo sono posti, perché tra l'altro al di là dei problemi di equilibrio di spogliatoio hanno anche dei problemi di equilibrio di bilancio. Però nel momento in cui tu dici devo fare un salto di qualità, devo prendere un giocatore veramente forte, un fuoriclasse di livello internazionale, le cifre degli stipendi ormai sono quelle, e anche l'Inter e il Milan per rimanere in Italia pagano stipendi di quel genere ai loro fuoriclasse più forti. Il vero colpo di genio, la vera bravura di Marotta sarebbe quella di riuscire a riequilibrare lo stipendio di Agüero, riuscendo a inserire nell'arco dei prossimi anni, naturalmente, insomma, nell'ottica di un piano di almeno un paio d'anni, dei giovani altrettanto validi che guadagna con stipendi un po' più bassi. Sì. È un po' il vecchio sogno che sentiamo ripetere dai tempi degli Zidanes e i Pavones di Florentino Perez, è un po' un'utopia del calcio moderno quello di riuscire a equilibrare gli stipendi dei big con dei giovani che però possono dare lo stesso rendimento di giocatori normali che invece guadagnerebbero di più. Io penso che in questo momento la Juventus, anche la squadra, la Juventus intesa come gruppo, intesa come giocatori, abbia davvero bisogno di un giocatore come Agüero, come Tevez, insomma un giocatore al quale aggrapparsi per poter rigenerare un tipo di convinzione, un tipo di entusiasmo anche all'interno della squadra, e che quindi almeno nel primo momento lo stipendio di Agüero non dovrebbe creare grossi problemi, soprattutto perché poi i giocatori che fanno parte attualmente della rosa devono fare un minimo di bagno d'umiltà, perché l'anno scorso sono arrivati pur sempre settimi. Certo. E quindi questo c'è poco da chiedere, da avanzare delle pretese per quelli che hanno chiuso questa stagione. Il vecchio Boniperti, quando si facevano ancora i contratti annuali, no, all'inizio di ogni stagione, c'è la leggenda famosa per cui Boniperti, quando una stagione andava male e i giocatori arrivavano uno a uno nel suo ufficio di Villar Perosa, e lui aveva tutti i ritagli di giornale e glieli faceva vedere, dice: tu c'eri in questa partita? E magari era una partita, una grave sconfitta che aveva compromesso la stagione, e il giocatore doveva abbassare la testa, e lì si discuteva l'ingaggio. Era un altro calcio, esatto. Però il concetto in fondo potrebbe essere anche quello, insomma, adesso che qualcuno della rosa della Juventus, dopo la stagione che ha fatto, avanzi delle pretese, è difficile da credere. È difficile da credere. Grazie Guido, grazie a voi. Grazie, alla prossima. Guido Vaciago di Tutto Sport. C'è chi scrive: secondo me è molto meglio Rossi e Vucinic, non mi convince alcun Loris da Pordenone. Oppure: l'importante è che faccia cantare la palla. Prima di parlare con gli ascoltatori, fatemi risentire Agüero che canta. The king, con Agüero papà. Beh, secondo me non canta malissimo. È bravissimo. No, lo dici con una faccia, come dire, bravissimo. Per me non è male. Se viene a Torino, una tournée estiva si può realizzare. Magari lo inseriscono nell'ingaggio. Bravo. Fabio d'Arezzo, Antonio, provincia di Salerno, Tino da Modena, 800 24 00 24. L'importante è che faccia cantare la palla, secondo Stefano da Brescia. Fabio, buongiorno. Buongiorno. Volevo intervenire sempre sulla vicenda Agüero. Juventus. Sì. Io credo che stiamo commettendo, se dovesse andare a buon fine, il solito errore come l'anno scorso: andare a rincorrere cose che non servono. Per quanto costa, per il discorso ingaggio che lei ha giustamente fatto notare, che sarebbe devastante. Fabio, però alla Juventus serve il Prozac, serve un antidepressivo, al di là di quello che serve, sì, dal punto di vista funzionale, non possiamo dire serve la stella, serve quello che accenda la fantasia, che riempie lo stadio nuovo, che faccia respirare un po' tutti, perché lì c'è una depressione pazzesca. Sì, però il top player non è certo Agüero. E chi è? Si parla di Tevez, sicuramente di più di lui, come esperienza. Come... non mi convince questa storia. Secondo me dovevamo rinforzarci più dietro, per un centrale, per anche terzini, le fasce basse. Io sono convinto che gli Steiner e Ziegler, gli Steiner abbiamo pagato troppo, secondo me, 10 milioni di euro. Sono tanti anche secondo me, ma non ce n'è moltissimi in questo in è vero, questo è vero. Comunque l'ultima cosa, e poi lascio la parola agli altri ascoltatori. Secondo me, io nutro qualche perplessità, bravo direttore, su Marotta. Non è quel fenomeno da cui Agnelli voleva ripartire. Le faccio rispondere da un suo interlocutore come Fabrizio Ferrari. Ha ragione l'ascoltatore? No, Marotta è un ottimo dirigente. Secondo me il nostro ascoltatore ha dei dubbi probabilmente sulle scelte che sono state fatte, perché prende dei giocatori con una strategia di creare un gruppo, quando probabilmente alla Juventus serviva il progetto della star e del leader già dall'anno scorso. Sì. Mentre l'anno scorso, secondo me, hanno preso dei giocatori che erano dei buonissimi giocatori da quarto, quinto posto. Sì, ma poi quello che ti dico, insomma, se devi sognare non servono i terzini. Sognare devi prendere i grandi attaccanti, via grandi attaccanti fantasia, ma per forza. È anche vero che l'anno scorso hanno provato in ogni modo a prendere Dzeko e non ce l'hanno fatta. Sì, è vero, e quest'anno stanno provando in ogni modo a prendere Tevez o Agüero o Giuseppe Rossi, e vediamo se ce la fanno. Assolutamente, perché è un momento in cui veramente la Juventus non riscuote successo all'estero, cioè non ha una bella immagine per gli stranieri. Gli stranieri preferiscono venire al Milan. La signora all'Inter non piace. Non tantissimo. Deve rifarsi il trucco. Antonio, sì. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Niente, io volevo intervenire su Marek, che sarà... Mare chiaro. Abbassi la radio e poi le faccio dire quello che vuole. Sono Salerno, però sono un tifoso del Milan. Sì. E allora, volevo dire, Tomarek è un ottimo, è un buon giocatore, non un ottimo giocatore, ma non credo che sia un fuoriclasse come ci ha promesso il caro Berlusconi. Due fuoriclassi Marek vale secondo me da 10 a 12 milioni di euro. 10-12 milioni di euro. De Laurentiis le manda la fotografia. La Juventus ha pagato 10 Lichtsteiner. Ha pagato 10 Lichtsteiner. Allora, se me lo dà 10 milioni di euro, lo compro io. Non ce li ho, non è neanche 10, ma me li faccio prestare a Fabrizio Ferrari. Che fa un poi mutuo. A 10 milioni lo prendiamo noi. Facciamo la colletta qua fuori. Io ho sempre il procuratore qui, Fabrizio Ferrari, e stiamo per andare a Madrid. Intanto c'è il popolo che scrive, quello degli sms 349-238-6666, poi c'è Tino da Modena che è ancora in linea, naturalmente tra poco gli passiamo la palla. C'è chi scrive, Andrea ad esempio, il problema del calcio italiano è che ora bisogna tenere testa al balletto di Boateng, magari con un cantante come Agüero, però all'Inter lui vorrebbe Giuseppe Rossi che si diceva qui prima non andrà al Barcellona, no. rimarrà Beh, credo che il Barcellona abbia scelto Sanchez. No, secondo me non rimane a Villarreal, secondo me si muove. Secondo me si muove, è un grandissimo giocatore Giuseppe Rossi, a me piace tantissimo. Finalmente abbiamo un giocatore italiano con una tecnica sopraffina, che gioca di punta, che fa gol in tutte le squadre dove è andato a giocare. Ha salvato il Parma quando è ritornato dal Manchester, è andato a Villarreal, si è fatto valere dopo sei mesi un po' per prendere l'abitudine al calcio spagnolo, è diventato protagonista. È un grande giocatore che merita un ottimo palcoscenico. C'è Gaetano De Luca che scrive che più che il Prozac alla Juventus serve il Viagra, vista la mancanza di palle che ha avuto quest'anno. Gaetano da Luca, 800 24 00 24. Non male. Tino, Modena, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, volevo chiederle una cosa. Siccome prima il giornalista di Tutto Sport diceva che Agüero è un fuoriclasse, a me la perplessità che mi rimane è questa. Chelsea, Manchester City, Manchester United, Barcellona, Real Madrid, come mai non fanno un'asta per Agüero? E poi un altro consiglio da Marotta, con Chiellini e Bonucci in difesa, 40 gol anche quest'anno li prendiamo, grazie. Mamma mia, arrabbiatissimo. Con Chiellini e Bonucci. Beh, quest'anno hanno fatto molto male, ma secondo me era sia la parte... Secondo me sono giocatori che si accoppiano male, anche dal punto di vista tecnico e fisico. Poi Chiellini continua a pensare sia un giocatore bravo ma abbastanza sopravvalutato. Ma a me non dispiacciono entrambi i giocatori. Secondo me Bonucci si è ritrovato buttato in una situazione, forse non era abbastanza preparato per affrontare una situazione complicata come quella che si è verificata alla Juventus. Probabilmente in una squadra più tranquilla, cioè lo stesso Ranocchia non è che ha fatto una stagione straordinaria, però Ranocchia giocava all'Inter e l'Inter già i meccanismi erano molto più oleati. Quindi secondo me non è così scarso Bonucci come ha fatto vedere quest'anno. È un buon giocatore, però ti posso dare ragione sull'accoppiamento con Chiellini, che è complicato. Bene Fabrizio, bando alle ciance, torniamo ad Agüero. Vieni con me. Andiamo. Signore e signori all'Italia, partner di Sky Team Ender One, mi danno il benvenuto a Madrid. Sono le ore 9:45 minuti. Per garantire la vostra sicurezza vi invitiamo a rimanere seduti con le cinture allacciate fino a quando l'apposito segnale non verrà spento e a mantenere i telefoni cellulari disattivati fino all'apertura delle porte. Vi raccomandiamo inoltre di aprire le cappelliere con cautela per evitare la caduta di oggetti. Grazie per la collaborazione. Eccoci, l'orario andava male, l'orologio della signorina. Siamo a Madrid però e c'è Filippo Maria Ricci ad aspettarci. Ciao Filippo. Buon pomeriggio. Allora, cosa serve per adesso? Stiamo andando a prendere Agüero. Che cosa bisogna dargli? Quanto serve? Soldi. Quanti? Tanti a lui, sì. Si parla di 6,5 più incentivi all'anno e 35-40 all'Atletico. Ah. E secondo te è fattibile la... Sì, è fattibile, no? Penso che il concorrente principale sia il Chelsea, perché come diciamo poi tutti questi grandi nomi che girano per questa estate di mercato, è chiaro che il Chelsea, che è il Chelsea, deve ancora muoversi e quindi prima o poi sceglierà dove puntare i suoi occhi e dove mettere i suoi tanti soldi, e Agüero potrebbe essere uno dei nomi. Anche se è vero che al Chelsea c'è Torres, e lui con Torres nel primo anno diciamo la coppia non ha funzionato, granché. Non so se adesso Villas-Boas vuole riprovare, ha delle idee sue e proverà a farli giocare. Quindi Io lo vedo abbastanza bene alla Juventus, insomma, secondo me la Juventus ha delle buone chance di prenderlo. Ma banalmente, oggi sulla Gazzetta lo accosti a Romario, tu lo conosci bene, l'hai visto molte volte, lo vedi ogni fine settimana lì a Madrid, ma è un crack, è un fuori classe, sì. È una superstar, sì. È un top player, sì. Tutte queste definizioni. Sì, secondo me sì. Qua in una squadra assurda come l'Atletico Madrid è riuscito a far molto bene e questo vuol dire insomma c'ha testa, ha delle qualità come giocatore enormi. E a 23 anni ha già vinto tanto, perché comunque ha vinto due volte il Mondiale Under 20, ha vinto le Olimpiadi, con l'Atletico è riuscito a vincere l'Europa League, la Supercoppa contro l'Inter, insomma per me uno ha fame, insomma io per me sì, è potenzialmente uno dei migliori attaccanti del mondo. Poi dopo che lo diventi c'è sempre, cioè, in Italia il problema è che in Italia non è semplice giocare, quindi dirlo da qui è un conto, cioè, certo. E poi ne abbiamo visti tanti finire male, però gli attaccanti argentini da noi hanno sempre fatto bene, e quindi sì. Questo è un altro indizio in più. Io lo vedo come potenzialmente veramente un grandissimo giocatore. Cosa diresti, Fabrizio Ferrari, ad Agüero per convincerlo? Cosa diresti all'Atletico Madrid per non sparare poi altissimo? No, beh, l'Atletico Madrid non lo so, ma se fossi Agnelli gli farei una telefonatina, come faceva l'avvocato, per convincere il giocatore, perché secondo me il progetto Juventus merita una attenzione importante. Quindi una squadra per con lo stadio, una squadra con un progetto veramente importante. Cioè, la prima squadra importante italiana che ha uno stadio di proprietà. Anche se non ha più neanche tanto appeal nei confronti dei telespettatori. Hai letto questi sondaggi su cui si stanno scannando in Lega, o anche oggi Beretta dice indispensabile trovare un accordo, eccetera. Però perde appeal anche nei confronti dei l'abbiamo dei detto tifosi, prima. Non piace più, non è più charmant la signora. Ma hai ragione tu, cioè, ci vuole qualcosa che veramente crei di nuovo, tiri sulla fantasia del tifoso, perché questi ultimi anni del dopo Moggi è stato veramente un disastro. Sì, veramente poi un il farmaco disastro. Sceglietelo voi. Insomma. Esatto. Filippo, un'ultima cosa, ma Agüero o Giuseppe Rossi? Fossi tu a dover prendere un giocatore per la Juventus? Beh, Giuseppe Rossi sei sicuro che si inserisce, perché Giuseppe Rossi dove lo metti sta, è un ragazzo che per me ha diciamo la migliore qualità è questa, una gran serietà, una grande capacità di adattarsi, e però potenzialmente tra i due vedo più forte Agüero. Io tra... sì, dimmi. Togliendo poi, rimanendo sempre col dubbio dell'adattarsi, e vedo più capace Agüero di prendersi un'intera squadra sulle spalle rispetto a Rossi. Sì, credo che tu abbia ragione. Secondo me Agüero è più leader, se vogliamo, rispetto a Rossi, pur essendo due giocatori molto forti. Rossi è un uomo di squadra. Cioè, io Rossi lo vedevo perfettamente al Barcellona. Secondo me al Barcellona avrebbe... Adesso ho sentito che Pastorello dice che la storia è chiusa. Sì. Per me è un grande rammarico. E al Barcellona l'avrei visto bene. Un uomo silenzioso, uno che si mette lì, fa quello che gli dicono. Avrebbe fatto molto bene. E Agüero è un potenziale califfo, insomma, nel senso positivo del termine. Insomma, uno che può far sì... La Juventus ha bisogno anche di questo. La Juventus non c'è un leader. Bravo, non so, cioè, questo è assolutamente vero. Questo è vero. C'è Chiellini, ma insomma, per favore. Vabbè, ancora aspettano le redini del Piero. No, ma del Piero va bene come totem, insomma. Certo. Però uno che sul campo sia lì e trascini la squadra, Agüero in questo lo vedo più pronto di Rossi. E questa mi sembra una considerazione importante, perché è verissimo, la Juventus nei momenti di difficoltà non ha il go to guy, no? Come dicono gli americani, l'uomo da cui andare per mettersi un po' il cuore in pace. Grazie Filippo. Grazie a voi, un abbraccio grande. Ciao. Grazie a Filippo Maria Ricci, Domenico, provincia di Padova, 800 24 00 24, numero verde. Domenico non è agganciato, io ho diverse domande tra l'altro da fare a Fabrizio Ferrari, che è molto esperto e ha le mani ben affondate nel calcio francese. Sì, sono andato spesso. Chi prende il Paris Saint-Germain di lingua biforcuta Leonardo? Questa è una bellissima domanda, anche perché adesso si stanno scatenando un sacco di giornalisti sul nuovo attaccante del Paris Saint-Germain, dimenticando che hanno comprato Gameiro una settimana fa, che era un giocatore. Chi? Gameiro, sarebbe la punta dell'Orient. Ah, però. Buonissimo giocatore. Giocatorone. Fidati, è un buon giocatore, vedrai. Vedrai che fidarsi non costa niente. Esatto. Quanto costa invece sto Hazard, fenomeno del Lille, che volevano tutti e adesso non lo prende più nessuno e che magari lo compra Franco Piantanida? Esatto, davvero? Lo vuole lui, sì. Vabbè, non male come scelta, è un talento pazzesco, è un giocatore belga, ma non è secondo me ancora pronto per giocare all'Inter, al Milan, alla Juventus, a sostenere queste pressioni importanti. E comunque un ragazzo, adesso se non sbaglio, ha 20 anni. Credo 20 o 21 al massimo, ed è un ragazzo con un talento incredibile, però anche nella nazionale del Belgio non è che riscuote un successo incredibile ed è già leader della nazionale. È un giocatore che su cui scommettere, insomma. Esatto, e non so se una scommessa vale 25-30 milioni. No, io non la faccio, ecco. I soldi lì a scommessa. Giuro che non la faccio. È solo quello, ma è un talento, vedrai che viene fuori. Vabbè, lascialo prendere a qualcun altro. Esatto. E intanto magari a De Laurentiis, che ha detto che Hamsik è fuori dal mercato, l'ho preso per valorizzarlo, ho investito su di lui in questi anni, secondo me si apre la bocca e si dà fiato, non si pensa, se vogliamo fare un po' di chiasso e di rumore facciamolo. Dunque 40 milioni, non scherziamo neanche, dice De Laurentiis. Signore e signori, benvenuti a Torino, l'atterraggio è 20 orario, evitiamo a rimanere seduti con le cinture di sicurezza allacciate fino a quando l'apposito segnale verrà spento e vi raccomandiamo di usare la massima cautela nella guida degli scomparti sopra di voi. I telefoni cellulari devono rimanere spenti fino all'apertura delle stiamo porte. Tornando, ma Agüero non ce l'abbiamo, è inutile è lunga dire, e tempestosa. Sai chi prenderei io tra lui e Giuseppe Rossi? Sì. Vucinic. Buona scelta. Antonio, da Torino, siamo arrivati da lei. Senza Agüero, non ce l'abbiamo, non siamo riusciti a prenderlo. Beh, guardi che io sono per Agüero, Sì, Senta, ma voi perché ironizzate sempre sulla Juve, tutto ciò che fa la Juve? Io ironizzo su chiunque. Però sentirvi parlare sembra che proprio tutto quello che fa la Juventus è tutto sbagliato, gli acquisti non vanno bene. No, ma più che altro basta leggere le classifiche, non è difficile. Vabbè, questo senz'altro è una ragione, certo, non tutto quanto si può fare sempre bene, però è anche ora di finirlo. È anche vero che io Antonio sì, ho sempre detto che la Juventus sul campo ha fatto un sacco di errori, no? Però è avanti anni luce, non so se anni luce, ma anni rispetto agli altri, gli anni che servono per deliberare e costruire uno stadio in questo paese, quindi non so, non sono anni luce, ma quasi, davanti agli altri, perché è vero che sul campo soffre, però fossi un tifoso juventino, cosa che non sono, guardando a queste cose un po' sarei fiducioso, diciamo così. No, no, questo senz'altro, sono d'accordo con lei, però... Io spero solo che facciano bene quest'anno, che acquistino giocatori importanti per la Juventus. Ma quali? Perché, quali? Adesso si parla di Agüero, poi se viene bene, perché è uno bravo, sotto porta non sbaglia mai, con la palla al piede sa giocarla bene. Poi ci va un mediano, che dia una mano, ma con le palle, che dia la mano a Pirlo. Ma devono vendere Sissoko e Felipe Melo, però, che non sono facili da piazzare. C'è un sacco di zavorra da buttare dal dirigibile, caro Antonio, c'è un sacco di zavorra che deve essere per arrivare da Ghero col dirigibile, infatti. Io ringrazio Antonio, torni a trovarci quando vuole, intanto Franco da Foggia, poi Domenico da provincia di Padova, 800 24 00 24, numero verde. A proposito di calcio francese, non gioca in Francia ma è francese, leggo oggi sui giornali Nasri al Milano, all'Inter, è una boiata pazzesca questa. Relativamente, secondo me all'Inter piace il giocatore moltissimo, e questo sono sicuro. Quanto poi costa? Questo è veramente complicato stabilirlo, anche perché il simpatico Wenger non è facile da trattare, perché insomma all'Arsenal stanno bene i giocatori, hanno una pressione molto, ma ridotta, molto relativa, ridotta. Beh, bravi di all'Arsenal, continua a dire ma cresciamo i giovani, abbiamo... Sì, sono 20 anni che fanno sta cosa. Sono 20 anni che facciamo così, vinciamo mai niente, ma chi se ne frega, infatti, vince. Wenger come fa a cambiare posto? Wenger è meraviglioso, esatto. Infatti è lì, fa il santone sulla montagna, gli dicono... Ma se non vince serve, bene, se non vince è uguale. Franco da Foggia, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione, soprattutto al signor Agenda. E un saluto se lo vedi al dottor Garanzini, che è veramente una persona squisita. Io volevo parlare un po' del Napoli, questo Hamsik, ma secondo me il Napoli, se vende Hamsik, fa un affare, per due motivi. Uno, perché a mio avviso Hamsik è un buon giocatore, però spesso si ha delle pause, diciamo, durante la partita, quindi credo che insomma, questa sua non continuità non sia il massimo del grande giocatore, insomma, diciamo così. E poi con tutti quei soldini che potrebbero venire, potrebbe acquistare un ottimo difensore che il Napoli ne ha bisogno, e perché no, magari un'occhiatina a Pastore a risolvere il problema. Sì, no, ma è chiaro che se va via Hamsik deve arrivare un pari livello di status, di talento, di guarda, appeal. Credo che il problema di Hamsik sia un altro. Cioè? Il giocatore chiaramente aspira a ottenere un ingaggio completamente diverso da quello che ha al Napoli, e il Napoli non glielo può dare. Le aspirazioni tecniche o di squadra sono, secondo me, il secondo punto di vista, perché il primo è sicuramente l'ingaggio. Al Napoli c'è una politica molto stretta per quanto riguarda gli ingaggi, non superano i 2 milioni di euro, e lui già, ci sono almeno 5 squadre al mondo che gliene possono dare il doppio, quindi secondo me diventa complicatissimo per De Laurentiis riuscire a convincere i ragazzi a rimanere. Perché e ragazzo poi Napoli, che ha appena inchiostrato fino al 2014, peraltro, certo, senza pistole puntate alla tempia. Assolutamente d'accordo. Assolutamente d'accordo con te, ma tu sai che il contratto, pur essendo io avvocato, sì, il suo valore è quasi, insomma, quello della Gazzetta del giorno dopo. Bravo, del giorno prima. Esatto, del giorno prima. La Gazzetta del giorno esatto. prima. E quindi è complicato. E secondo me è ancora più complicato trovare un sostituto. Perché devi trovare un sostituto che non costi tantissimo, ma che soprattutto guadagni il diciamo dentro il range che il Napoli prevede. E quindi non è Pastore? Assolutamente no. Domenico, provincia di Padova, buongiorno. Eccolo qui. Eccolo là. Dica. Allora, da buon juventino e da perenne juventino, io volevo tornare sulla Juve. Sì. Secondo me la Juve non ha bisogno di un attaccante sotto porta, di degli atipici, cioè non ha bisogno, secondo me, né di Agüero né di Giuseppe Rossi. Perché dice, tanto abbiamo Toni e Amauri. No, no, Toni e Amauri lasciamo da parte. Intanto abbiamo Matri e Quagliarella che non sono da buttare via. Sì. La Juve ha bisogno di un nuovo perno, cioè ha bisogno di un nuovo Platini, di un Sivori, di un qualcuno che diventi bandiera e intorno al quale costruire la squadra. Finora Marotta ha operato un po' troppo a pioggia, ma manca la colonna centrale. Secondo me, l'unico per caratteristiche tecniche, gioventù, futuro, può essere Pastore. Io prenderei una persona intorno a cui costruire la squadra del domani. Dovrebbe diventare la Juve, dovrebbe diventare qualcuno che si leghi e identifichi un periodo, così come è stato Platini, come è stato il suo discorso fila, il suo discorso secondo me fila, però si tratta di capire, al di là della bandiera del futuro, perché sono cose che probabilmente nel calcio di oggi non esistono, si tratta di capire se Pastore ha tutto questo. Io non sono sicuro che abbia tutto questo a via Pastore. Adesso, poi però, qui siamo nell'alveo delle scommesse, può essere... Però a Palermo, che è chiaramente una realtà completamente diversa, è sempre decisivo, decisivo. Tu guarda le partite di Palermo, quando lui ha voglia di giocare, sente la partita e, fra virgolette, ci dà veramente, lui è decisivo sempre. A me piace molto, io sono no, ma anche a me, piace molto. Poi sono giocatori, ma come Hamsik si diceva prima, a giocatori di talento non puoi chiedere la continuità, non puoi chiedere il set in pagella in tutte le partite, ma poi questo sono non due giocatori diversi. Zidane, e poi io non sono d'accordo con l'ascoltatore di prima, perché Hamsik è un centrocampista che ha fatto migliaia di gol, è impressionante per essere un centrocampista. Ma invece un'altra cosa che ti voglio chiedere io, perché in Francia arrivano gli emiri come al Paris Saint-Germain e da noi solo sconosciuti paisà come Di Benedetto alla Roma? Guarda, questo ce lo chiediamo un po' tutti, io credo che sia anche un appeal meramente turistico, infatti come vedi sono andati a Londra e a Parigi che sono le mete degli arabi. Non è che Roma fa schifo, No, assolutamente, però non è che Roma è famosa perché ci vanno gli arabi, mentre Parigi e Londra assolutamente sì. Tu dici? Beh. Quindi secondo anche, me facciamo fatica a vedere gli anche a Saint-Tropez a Formentera potrebbero avere delle grandi squadre. Antonio, provincia di Napoli, e poi andiamo a casa. Dica, signor Genta, Buongiorno. Innanzitutto i complimenti perché lei è il number one, numero uno. Grazie Antonio, grazie. Volevo dirle, io sono, secondo me, uno dei tifosi del Napoli contento se Hamsik va dal Milan, ma il primo motivo è perché sono convintissimo che quel ragazzo, se utilizzato nel suo ruolo originale, che sarebbe esterno alto di sinistra e centrocampo, esprime il 100% delle sue capacità. Noi a Napoli fino adesso abbiamo visto il 50% di Hamsik, e di questo ne sono super convinto. Sì. Il Milan, se lo prende, lo userà come... E poi però non mi dica che lui va al Milan, esplode, diventa il più forte giocatore del mondo giocando alto a sinistra. Lei è contento perché con tutto il bene che le voglia, lei è Hamsik, non ci credo che poi mi chiama e dice: oh, come sono contento che questo ce l'avevamo noi, è andato al Milan. Io ringrazio Fabrizio Ferrari, anche se non è riuscito a portarmi a Guero. No, ce l'abbiamo fatta, magari domani, magari un altro giorno. Grazie Fabrizio Ferrari, grazie a Franco Piantanida, autore di questo programma. E grazie a Mauro De Angeli in regia, ci sentiamo domani alle 2:00.